blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Dici mamma. Mamma. Ieri della stampa. Mamma. Mamma. Ma ti faccio anche una papà buona oggi. Ma sei brava, vieni a dare un bacino anche alla mamma, vieni. Pronto, Attila? Chiama mamma. Mamma. Attila. Mamma. Bravissimo. Vai, ciccio. Sì, più o meno è la stessa cosa, ti hai sentito? Il bambino che dice mamma e il cane Attila che dice mamma, preso da YouTube. Beh, questa volta Papa Francesco ha sorpreso ancora di più chi pensava che nell'ideale irenico di San Francesco gli animali avessero un rango privilegiato nell'immaginario papesco. E invece no, alla residenza Santa Marta in Vaticano ha parlato di matrimonio. Ha parlato di matrimonio richiamando all'ordine i fedeli, i buoni cristiani, che per scelta intraprendono il cammino di matrimoni sterili, cioè si sposano non con la finalità principale di fare figli. E così qua rientriamo in cose già sentite, già dette. Ma quello che ha detto, sorprendendo ancora una volta il Papa, ha detto che magari preferiscono non fare figli per stare più liberi, più comodi, preferendo di tenere in casa un cane o un gatto. E qui è andato a toccare un punto molto dolente. Infatti questa mattina Oscar Grazioli sul giornale risponde: caro Papa, non serve scegliere tra figli e gatti, ponendo il problema della persona che ha una visione non trascendente dell'esistenza, per cui naturalmente il conforto anche di un animale è qualcosa che comunque fa parte della capacità, della possibilità, dei mezzi a nostra disposizione per appagare il nostro terrificante horror vacui, il nostro bisogno comunque di avere qualcuno vicino che ci dia perlomeno la parvenza che ci ami. Beh, voi come la pensate da questo punto di vista? Il Papa ha toccato un punto dolente, una delle ragioni per cui non si fanno figli, che oggi diciamo questa sorta di gratificazione di avere esserini carezzevoli in casa che ci gratifichino con il loro affetto, con le loro coccole, con le loro balzane spavalderie che come una volta hanno sempre fatto i bambini per essere sopportati, per non essere buttati fuori dalla finestra, per essere nutriti, cresciuti fino a che hanno la loro autonomia. Oggi questo compito di intrattenimento domestico è virato drasticamente su cani e gatti. So di toccare un argomento, ahimè, molto doloroso e molto sensibile per i nostri ascoltatori che molte volte mi hanno accusato di insensibilità, ma quanto secondo voi il Papa ha toccato un punto focale? Quanto oggi la centralità dell'animale domestico ha in qualche maniera compensato quel bisogno umano, viscerale, genetico di contatto umano con esserini che ci gratificano con i loro occhioni dolci rispetto ai bambini? Guardate, i dati Istat sono veramente terrificanti. Non si fanno più i dati, l'ultimo rapporto 2014 rispetto a quello del 2013 ha portato ancora un numero ai minimi storici rispetto anche alle medie europee. Ma per la stessa ragione però viene esaltato una sorta di umanizzazione diciamo degli animali. Ultima, ne avete già sentito ampiamente trattato da le cronache, Dudu, un cagnolino che era diventato il simbolo quadrupede di una campagna elettorale basata proprio sulla compensazione della solitudine degli anziani attraverso animali. Apriremo tutti i canili, decreti svuota canili, un cane per tutti, aumenteremo la pensione agli anziani per poter mantenere un cane che possa compensare il loro desiderio di solitudine. Vedete che lentamente gli animali stanno occupando posti che una volta erano occupati dagli esseri umani, dalle naturali progenie delle persone che invecchiando avevano comunque figli che si occupavano di loro e nell'età diciamo intermedia avevano dei bambini con cui comunque passare la giornata che davano la tenerezza e la piacevolezza in cambio comunque delle cure. E quindi anche Dudu è stato dotato di una cagnolina, è arrivata Dudina, adesso staremo a vedere come se fosse una sorta di coppia coppia di principini reali e finalmente si sono sposati. Adesso vedremo quando si accoppieranno, chissà se faranno il filmino della monta di Dudù, ma è una coppia di fatto a tutti gli effetti, ma nessuno si scandalizza perché sono animali e già immagino lo scoop che saranno accaparrati i magazine più in voga per avere la cucciolata Dudina che allatte cucciolini, Dudù che cambia il pannolino ai Dudini e che ne so, Berlusconi finalmente nonno che va in giro con la carrozzina con tutti i cagnolini. Daniele, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Il suo punto di vista. Ma secondo me il Papa non ha detto niente di sbagliato. È chiaro, il Papa è infallibile, se non lo dice lui. Vabbè, d'accordo, ma a parte il discorso dell'infallibilità ha colto il punto, cioè ormai siamo in una società 800240024, scusi, do i numeri che non l'ho ancora dati per chi vuole partecipare a questo dibattito. Il Papa non parlava ex cattedra Petri, quindi non era infallibile, ha detto un suo punto di vista e oggi siamo qui per sapere se siamo d'accordo. Daniele. Anch'io ho una famiglia abbastanza numerosa, quindi ho 6 figli. Quindi lei gli fa un baffo il cagnolino e il gattino? No, dico che purtroppo non è un cane né un gatto, quindi cioè, questo mi dispiace perché sembra quasi che sia contro gli animali, in realtà non è così. Beh, contro, gli animali hanno sempre vissuto lo stesso anche se nessuno se li teneva in casa, non è insomma mai posto i problemi. Ah, io infatti volevo proprio ribadire questo, cioè diamo il posto a ogni cosa, agli uomini e agli animali, quindi alla fin fine... Alla fin fine il Papa ha ragione allora. Ma ha 100 ragioni secondo me. Quindi senso... diciamo in Italia si è ripiegato sui cagnolini, sui gattini, sugli animali da compagnia e si evita di fare figli, che questi esserini batuffolosi, pelosi e linguacciosi compensano quella tenerezza che era diciamo la moneta di scambio, diciamolo chiaro, lei ha 6 figli, perché uno alleva i figli? Perché sono carini, sono affettuosi, danno soddisfazione, la natura ha fatto sì che i cucciolotti siano molto carucci, se no uno il terzo giorno dice ma chi me lo fa fare di trasbordare questa montagna di cacca da questo esserino al cassonetto, uno non lo farebbe mai. Franco. Sì, vorrei solo portare brevemente la mia esperienza, perché per esempio il Papa se n'è finalmente accorto. Allora, praticamente a causa di alcuni rappresentanti dello Stato, cioè un ex maresciallo dei carabinieri, un ex procuratore e un ex giudice di pace, tutti amici sviscerati dei cani, loro hanno preferito difendere il diritto dei cani di abbaiare quanto volevano. E io che ero uomo, padre di famiglia... Ah, il dente avvelenato lei, ha subito quello che giudica un torto giudiziario. Sì, ma non solo, c'è un articolo chiarissimo del codice penale, il 659, no, che dice chiaramente, addirittura prevede l'arresto, no, per chi non impedisce. Io, artigiano, se avessi fatto... Non impedisce al cane di abbaiare, dice... E non è che impedisce al cane, che punisce se uno diciamo non pensa, per esempio questi cani erano tenuti prigionieri. Allora è crudeltà verso l'animale, se guaisce abbaia. Infatti io ho fatto denuncia per disturbo della quiete pubblica e maltrattamento di animali. Invece? Nessuno ha fatto niente. Io artigiano, se avessi fatto andare il compressore alle 10 di sera per consegnare un lavoro, mi facevano un culo grande come una casa. Invece adesso così mi trovo da 17 anni da solo, se vuole le faccio anche i nomi e cognomi, tanto non ho più niente da perdere, ho perso la casa, la famiglia e la dignità. Quindi si è rovinato per questa vicenda di cani. Ma se lei avesse per assurdo... italiano ha protetto i diritti dei cani invece di quelli di un essere umano. Adesso se n'è accorto anche il Papa che in Italia è un cane più protetto. Vabbè, adesso sento un po' di acrimonia per ciò che lei ha passato, ha sofferto. Questa è giustizia dell'abbaiamento notturno, ma se lei avesse denunciato dei bambini urlanti non avrebbe avuto lo stesso tipo di sentenza probabilmente. Sì, ma il problema è che io ho 2 figli anch'io, i bambini sono esseri umani, danno fastidio anche loro, però sono esseri umani, si va lì e insomma si sa che il bambino a un certo punto ha fame, quello, nessuno dice niente, nessuno oserebbe dire niente, non è come i bambini al ristorante che ti fanno impazzire. E quelli sono i bimbi minchia, sono maleducati, quello è un altro discorso. Bravissimo, e nessuno si fa niente. Comunque oggi volevo sottolineare che se tante coppie non mettono al mondo dei figli, perché ormai hanno visto che un bambino non conta un cazzo, del resto l'aborto, che è la più grande delitto perché si infierisce su un essere che non si può difendere, è stato portato proprio in Italia dagli stessi, poi che sono animali. Si sta allargando un po' troppo adesso. Il diritto all'interruzione della gravidanza è una legge dello Stato, bisogna anche rispettare i punti di vista altrui. Leggo alcuni sms perché sono significativi. Intanto ricordo il numero 800240024. Sembrava una frase non particolarmente importante, interessante, fondamentale in un discorso del Papa, però mi rendo conto che ha toccato un punto fondamentale. fondamentale. Io gay pago le tasse per i figli degli altri, meglio i cani, e sto papa è peggio degli altri, Roberto da Bergamo. Che li faccia il papa ai figli con quello che costano? Altro ascoltatore, francamente preferisco un cane e un gatto a un piccolo testa di c che andrà a ingrossare le file di Maria De Filippi. O anzi, da trasmissione genetica, perché questo mi sembra una di quelle fobie immotivate. Se oggi uno concepisce un figlio è molto poco probabile che andrà a ingrossare comunque sia, anche se avesse un'autostrada aperta di fronte agli studi, le file di Maria De Filippi. Non so se fra 15 anni ancora ci sarà quel programma. Mi auguro di sì, ma ci saranno probabilmente alternative. E poi tutti se la prendono, le politiche fallimentari dei nostri politici, sempre colpa dei politici. Ma non avete risposto alla domanda fondamentale. Pensate che stia veramente, come il Papa fa intendere, ci sia stato veramente uno scambio proprio radicale di attenzione e gli animali domestici in casa assolvono la stessa funzione compensatoria dell'affetto, della solitudine, del bisogno di tenerezza che una volta assolvevano i figli, che era la moneta di scambio per cui la gente tollerava di avere dei figli per casa. 800 24 0024. Ciao. Miau. Miau. Che c'è? Figura? Mishka, I love you. I love you. I love you. I love you. Questi sono esseri umani che applicano a un animale lo stesso criterio di abilitazione al linguaggio che applicherebbero a un bambino. Maria, buongiorno. Sì, salve. Allora, io ho seguito il discorso. Allora, io ho una bambina, non si potrà mai equiparare un animale a un bambino. Io la adoro, però voglio dire, forse il Papa dovrebbe rendersi conto della situazione economica che c'è qui in Italia. Cioè, beh, le famiglie ci pensano non una, ma 20 volte prima di avere un bambino. Perché non ci sono soldi? Cioè, io e mio marito lavoriamo, eppure facciamo fatica. Quindi tante volte, molto probabilmente, penso a una coppia di vicini di casa che hanno l'appartamento sopra di me, sono giovani perché avranno 35 anni, si sono preso un gatto, ma io non mi sento di giudicare. Perché dice, il gatto costa meno, il gatto costa meno, dice. Ma fa la stessa perché funzione. Non c'è la possibilità di farsi una vita. Ma questo, vabbè, questo, guardi, chi ha sei figli obietterebbe, dice, noi abbiamo fatti i figli, li manteniamo lo stesso, stringiamo la cinghia, tanto non muoiono, i ragazzini non muoiono nemmeno se li buttano nel cassonetto, figuriamoci se devono rinunciare all'ultimo modello di palmare. Non vale per me, che non seguo queste posizioni, ma qualcuno potrebbe obiettarglielo. Però vede, anche lei ha posto nel suo immaginario un gatto come sostitutivo di un figlio, qualunque sia la ragione per cui non si fa. Melog, cronache meridiane. Clida Shampoo è uno shampoo concentrato adatto alla detergenza di tutti i tipi di pelo del tuo cane. Rispetta il pH naturale della pelle del cane agendo delicatamente. Disponibile in tanica da 5-10 litri. Prezzo euro 40. Cappottino Leo Dance for Pets. Per il vostro cane, cappottino in pile con gonnellina, ecopelliccia e cuore contornato da pietre Swarovski. Euro 90. Felpa Velour Heart. Tenera felpa con bordi e maniche in colore a contrasto e sulla schiena, grande cuore colorato con fiocchetto. Prezzo euro 35. Che tenerezza! Però vedete, probabilmente Papa Francesco avrà avuto per le mani un catalogo di questi oggettini e forse qualche domanda se l'è fatta. Mi scrive un ascoltatore, vede, il Papa, che sembrava intoccabile, raccogliere il consenso unilaterale, bipartisan, da Scalfari barbuto e sulla via di Damasco fino a tutti i più incalliti mangiapreti, tutti improvvisamente avevano trovato la guida per la loro vita, però con una sola frase, toccando gli animali, si è fatto un sacco di nemici. Evidentemente c'è qualcosa nel nostro paese. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire, io non ho potuto avere figli, nero e mia moglie, ci siamo sposati in tarda età, non sono arrivati. E capita. Capita, infatti. Io ho sempre avuto cani e in questo momento riversiamo, tra virgolette, l'affetto su due cagnoni bellissimi che abbiamo adottato dai canili. Volevo solo dire una cosa, che molte volte le persone che adottano cani per strada e hanno cani in famiglia sono persone che comunque danno. della serie. Se io avessi avuto due figlie, credo avrei avuto tre figli e cinque cani. Ci sono persone invece egoiste nella vita che decidono di non aver figli perché non gli fa carriera, non gli fa soldi, e quelle persone di solito sono anche, vivono nello stesso modo anche il rapporto con gli animali. Ma posso dire una cosa, io non mi sento giudicare nessuno, se uno non vuole figli non faccia figli, deve farli per forza, non può essere un imperativo categorico. Certo, ci porremo il problema che faremo meno figli noi occidentali, europei, italiani, chiamatemi quelli che volete, ma arriveranno i figli, vada in una qualsiasi scuola elementare, sono piene di bambini. Magari non sono tutti figli di italiani, ma laddove c'è un vuoto si va a riempire. Tutto manca al mondo meno che persone che nascono continuamente. L'egoismo, l'accusa di egoismo è sempre stata per me un po' sgradevole, è sempre stato qualcosa di puriginoso quando ti accusa di essere egoista. L'altruismo deve essere una capacità da distribuire con leggerezza, senza che nessuno lo imponga. Devi essere altruista è un controsenso totale, radicale. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Io sono molto irritato da quella frase. Anzitutto bisogna mettere in chiaro che non è vero che vengono fuori così tanti bambini. Una coppia su tre in Italia ha difficoltà ad avere dei figli. Mia moglie ed io abbiamo una bambina di 5 anni. Per averla abbiamo avuto una gestazione di 2 anni e mezzo, passando da 3 fecondazioni assistite, e alla fine ce l'abbiamo fatta. E questo perché, secondo lei? È una cosa nuova oppure è sempre stato nelle statistiche della possibilità? No, di a me hanno raccontato che è una cosa nuova, ma si entra in un ambito medico che mi hanno raccontato, ma non intendo gestire. Cioè pantaloni che stringono troppo, che non gli spermatozoi in modo... Ma no, è irrilevante. Mia moglie ed io abbiamo scelto di fare questo percorso, abbiamo una bimba e siamo contentissimi. Adesso è arrivata questa fase estremamente infelice da un tizio che vive come un re, che non ha idea di che cosa significhi avere un figlio, educarlo, vestirlo. Beh, ne ha idea, come ne hanno idea tutte le persone. Sì, mi permetta, sì, faccio finire perché ho detto sono irritato. Arriva un giudizio da parte di una persona così, che tra l'altro dimentica che nel 2011 la Chiesa ha definito fra i peccati del XXI secolo la fecondazione assistita. Questo, quindi fate meglio a usare il cervello prima di dire sciocchezze di questo genere. Inoltre mi permetto un'osservazione. È giusto che il problema della natalità venga fuori da parte della Chiesa Cattolica, perché se nascono pochi bambini, quello che è la principale aggregazione di pedofili d'Italia rischia di rimanere senza materia prima. Quindi sarebbe meglio che stesse zitto, ma veramente che stesse zitto, e che si vergogni, perché mia figlia nata nel 2008... Però posso dire una cosa, Lorenzo, non è che la voglio, lei esprime il suo parere, dica quello che vuole, figuriamoci che non sto qui, nessuno ha bisogno di paladini. Mia figlia faccia parlare. Lorenzo, scusi, non è un comizio, scusi, adesso parlo poi io. Ha parlato, lo ha tutto modo. Lei sta esprimendo però un'acrimonia esagerata che la mette in una condizione di difficoltà. Io capisco le difficoltà che ha avuto lei per avere suo figlio così, ma non può impugnarla come una bandiera assoluta perché lei ha avuto difficoltà ad avere i figli e prendersela in questa maniera perché uno dice semplicemente fate più figli. Fa il Papa, è il capo di tutti i cristiani, dice alle sue pecorelle fate i figli. Se lei non ne riconosce l'autorità può benissimo dire parli ai suoi, non parla a me, senza bisogno di aggiungere la riserva di caccia dei pedofili. Può essere anche vero, figuriamoci, non sto qui a negarla, però mettere tutte queste cose e mostrare tanta crimonia, tanto livore, depotenzia il principio per cui uno si batte. Questo è il mio punto di vista, capisce? Poi è stato libero di dire quello che voleva, figuriamoci, non si apriranno le porte del cielo, non scenderanno i fulmini, il Papa non se la prenderà per questo, sarà abituato. Igino, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono rimasto incuriosito molto dalla domanda e posso, secondo il mio parere, di dire che la gente ha frainteso un pochino questa domanda. Ma siamo qui per capirlo, potrei aver capito male anch'io, non lo so. Io ho detto semplicemente, il Papa dice fate più figli, hanno sempre detto i papi, cioè, però una cosa nuova rispetto a tutti gli altri papi che hanno detto l'egoismo, molti dicono perché usate il sesso come maniera di piacere in mondo e non fate per i figli, ognuno ha detto la sua. È la prima volta che un Papa dice però attenzione, non trovate questa compensazione degli animali domestici. Quindi si è accorto che comunque nel nostro paese c'è una percezione esagerata degli animali domestici che va a riempire dei vuoti. Questa il mio punto di domanda, poi forse ho capito male, dica il suo. Ma io penso che comunque, cioè almeno secondo appunto il mio punto di vista, gli animali per quanto mi riguarda sono esattamente alla stessa stregua dei figli, Cioè, nel senso che una persona che purtroppo non può avere figli, oppure che decidono di non avere figli, che i figli crescono figli, e hanno autonomia, gli animali invecchiano e poi muoiono, e noi sopravviviamo ai nostri figli, animali. Anche i figli crescono e muoiono purtroppo. Sì, ma nell'ordine naturale delle cose noi li cresciamo perché sì, se ne vadano appunto con le loro gambe. L'animale invece, però, più lo cresciamo e più ci teniamo vicino. Sì, è vero, quello sì. Però io ho avuto tanti animali, non è che parlo... compagnia. Sì, sì, gli animali ci fanno compagnia. Io quando morì il mio gatto, io piansi. Io adesso dirò una cosa che non ho mai detto. Costruì col Black & Decker la bara del mio Scottish Terrier quando morì, piangendo tutta la notte, l'andai a seppellire. Erano altri tempi, non avevo i figli, ero molto più coglione di oggi, ero tante altre cose a giustificazione, però capisco, è una cosa umana. Detto questo, sì, il Papa, secondo lei? Secondo me il Papa sbaglia a dire una cosa del genere. Non può dire che l'italiano, oppure nel mondo, perché poi alla fine dobbiamo vedere. No, lui si rivolgeva a noi, si rivolgeva a noi italiani, anche perché, mi scusi, riflettiamo su una cosa, me lo segnala Fabrizio Intonti. Se così non fosse, non avrebbe fatto una campagna elettorale Berlusconi, che se ne intende di italiani, basata proprio sull'affetto degli animali, con Dudù? Non avrebbe il buon Monti preso, nonostante gli facesse schifo più che ogni altra cosa a Monto, un cagnolino in braccio per far vedere che anche lui amava i cagnolini? Se i politici hanno capito che comunque la demagogia basata sugli animali è sostitutiva dell'antica demagogia in cui passava il democristiano e dava la carezza, o il vescovo e dava la carezza al bambino, qualcosa evidentemente c'è, e il Papa secondo me ha visto giusto. Lidia. Buongiorno, sono molto contenta di parlare con lei. Volevo solamente sottolineare un aspetto. Uno, che l'ha già detto un signore prima di me, il fatto che la Chiesa si oppone alla fecondazione. Vabbè, questo è un altro. Adesso parliamo dei cani, a tutto si oppone, nemmeno ecco, i preservativi, allora, niente. Io non tutto confonderei, cioè l'affetto verso un animale. Non c'entra niente con l'affetto verso un bambino, cioè le cose non si sovrappongono, non c'entra niente. Il fatto poi di avere tanti figli, ci sono tante persone anziane, io frequento, faccio del volontariato in una casa di riposo e ci sono delle persone anziane che hanno parecchi figli e abbandonano i genitori, mentre un animale magari li sta un pochino più vicino, cioè è più difficile. Guarda, i giapponesi stanno studiando dei perfetti robot che riproducono comunque esseri umani. Io ho visto, la signora con un robot fatto dal CNR. Prima o poi avremo comunque dei sostituti, dei succedani alla compagnia umana, quindi in questa direzione funziona. Ad ogni modo io non ce l'ho col Papa perché lui fa la sua politica. Io metto solo in evidenza questi due fatti, poi il Papa fa la sua politica, nel senso che... Mi sembra la cosa più giusta, il Papa si esprime, però il Papa ha toccato un punto che secondo me valso la pena di approfondire. L'animosità, la verbosità, l'irritazione in molte persone mi conferma il fatto che in Italia ci sia una sorta di spostamento del polo dell'affettività familiare dai bambini verso gli animali. Non dico che sia un male, ma è così. A domani.